Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Carenza di personale di medici, ma anche ripresa di attività accantonate causa pandemia. Prima estate senza restrizioni da Covid per le case di riposo della regione. Liberazione anticipata speciale, più giorni da scontare ogni semestre in condizioni di buona condotta. È la proposta dell'associazione Nessuno Tocchi Caino per arginare il sovraffollamento nelle carceri. Quasi tutto esaurito negli alberghi triestini, il cui numero è triplicato in 20 anni. Lieve rallentamento di turisti nei giorni di Ferragosto, comunque in crescita rispetto all'anno scorso. Navigazione con sorpresa sul delfino verde che da Trieste porta a Muggia. Spettacolare la vista dei delfini che accompagna la motonave. Marijuana coltivata in un giardino osoppo, scoperta dalla Guardia di Finanza di Udine, una persona di 52 anni denunciata. Udinesi e triestini sono i guidatori più multati del Friuli Venezia Giulia. Con 4 milioni Trieste è il comune che ha incassato i maggiori proventi derivanti dalle sanzioni, in testa quelle per divieto di sosta. Attori sportivi, politici, presidenti della Repubblica, spicchi di storia italiana dagli anni 80 ad oggi in una galleria di foto di personaggi famosi ospitata in un noto ristorante albergo di Venzone. Fallito l'ultimo tentativo di accordo con l'Inter, Lazar Samardžić torna all'Udinese dove si allenerà, le negoziazioni bruscamente interrotte ieri sera. Una buona giornata dal GR del Friuli Venezia Giulia, in studio Daniele Lettic ed Elisabetta Zaccolo per questa seconda edizione. Prima estate, dunque, l'avete sentito dai titoli, senza restrizioni da Covid per le case di riposo della regione, alle prese con cronici problemi come la mancanza di personale specializzato. Ma tra le note positive, le rette che non aumentano nonostante i rincari dovuti all'inflazione. Vediamo perché. Per le case di riposo della regione è la prima estate senza restrizioni dovute al Covid. Le visite agli ospiti si possono svolgere senza appuntamenti nei limiti al numero di persone. L'unico obbligo è la mascherina FFP2 o in molti casi la chirurgica. Una riacquistata libertà che le strutture hanno visto come occasione per riprendere attività che sembravano dimenticate, come i soggiorni climatici o persino gite in barca. Lo afferma Giovanni Di Prima, coordinatore delle residenze di Federsanità Friuli Venezia Giulia, che gestisce una trentina di case di riposo in regione. Il caldo è stato ora il problema principale, soprattutto a luglio. Molte strutture hanno dovuto fare impegnative manutenzioni agli impianti di rinfrescamento. Altra questione è quella della cronica carenza di infermieri, più grave nel periodo estivo, a causa delle ferie del personale, a cui si è aggiunta di recente anche una difficoltà a reperire operatori sociosanitari. A mancare non sono tanto i concorsi, afferma Di Prima, ma la vocazione e la disponibilità a fare questo tipo di professioni. Inoltre, le strutture non hanno un proprio medico, ma ogni ospite mantiene il suo medico di base, che spesso però sono troppo occupati per le visite in casa di riposo. Prima estate senza Covid, ma prima estate con i rincari dovuti all'inflazione. Pesano soprattutto quelli delle materie prime per la ristorazione, affermano i gestori delle strutture, ma gli aumenti non si sono tradotti in una salita delle rette. Per il 2023 la regione ha dato la possibilità di aumentarle in corso di anno, altrimenti a dicembre 2022 le case di riposo avrebbero dovuto preparare rette spaventose a causa dell'inflazione allora molto alta. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora la grave situazione nelle carceri italiane. Dopo Tolmezzo, il viaggio della speranza a visitare i carcerati organizzato da Nessuno Tocchi Caino in collaborazione con le camere penali, oggi ha fatto tappa a Udine. Sui cronici problemi di sovraffollamento, l'associazione propone alcune soluzioni. Lo chiamano viaggio della speranza, ma le visite nelle carceri dell'associazione Nessuno Tocchi Caino si rivelano spesso una discesa nel degrado e nel sovraffollamento. Da inizio anno sono state almeno 80 in tutto il paese, tra le ultime tappe visitate dalla delegazione, che comprende rappresentanti delle camere penali, figurano i penitenziari di Tolmezzo e di Udine. Ogni carcere ha le sue difficoltà, ma il quadro generale, spiegano, è sempre molto simile. Elisabetta Zamparutti, tesoriera di Nessuno Tocchi Caino. Problemi di sovraffollamento, incidenza della malattia mentale, sempre più giovani, si abbassa l'età di chi entra in carcere, sempre di più, per problemi legati magari alla dipendenza da sostanze. Tutti i problemi tornati alla ribalta con i tragici casi di suicidio in poche ore avvenuti nelle carceri italiane. E al sovraffollamento si può trovare una soluzione. consentire una liberazione anticipata speciale, cioè più giorni da scontare ogni semestre in casi di buona condotta. Oltre ai detenuti, la visita è rivolta anche a quelli che chiamano i detenenti, ossia tutto il personale che in carcere lavora. Sergio D'Elia, segretario dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. Questo Stato condanna non solo chi ha sbagliato, ma soprattutto condanna i suoi servitori a vivere in condizioni di abbandono. E ad avviso dell'avvocatura non sembra reggere nemmeno l'ipotesi di impiegare caserme per fare nuovi istituti. Raffaele Conte, presidente della Camera Penale Friulana di Udine. Non è possibile, ha bisogno di certi ambienti, di certe strutture, di certe metrature, di certi modi di essere. E poi se non riusciamo a mettere il personale nelle carceri che già ci sono, pretendiamo di trovarne pure per carceri che dovrebbero sorgere. La politica si muove nei confronti del carcere solamente per utilitarismo, non già perché prenda atto dei problemi che realmente ci sono all'interno di queste strutture. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Quasi tutto esaurito negli alberghi triestini, il cui numero è triplicato in 20 anni. Lieve rallentamento di turisti nei giorni di Ferragosto, comunque in crescita rispetto all'anno scorso. La settimana di Ferragosto per gli alberghi di Trieste non è all'insegna del tutto esaurito, ma si può parlare di un riempimento delle strutture del 90%, secondo le stime di Federalberghi, a fronte di una crescita del prezzo delle camere compresa tra il 18 e il 25% rispetto allo scorso anno. Un lieve calo, quello del capoluogo giuliano rispetto ad altre città italiane, dove il pienone di metà agosto è assicurato, dovuto a più fattori, non ultimo la minore attrattività della Croazia per il suo aumento dei prezzi, tradotto in un numero inferiore di turisti che si fermano in città per spezzare il viaggio. Altro fattore, quello economico, perché in ogni caso la minor disponibilità dei vacanzieri di casa nostra è ormai cosa nota. Da ricordare poi che Trieste non è la classica destinazione di mare a cui si rivolge chi si concede una pausa solo per Ferragosto. Ciò nonostante, l'anno in corso è di quelli da ricordare, come spiega il presidente di Federalberghi Trieste, Guerrino Lanci. Molte più persone per periodi molto più lunghi molte volte. Oggi si vedono turisti che restano a Trieste 5, 6, 7 giorni facendo gite nell'intero territorio. La maggior parte di chi soggiorna in albergo in città proviene da oltrefrontiera, ma quest'anno, accanto ad austriaci, tedeschi ed olandesi, c'è una novità dovuta a più cause. Ancora Lanci. Sicuramente perché il turismo si è allargato e Trieste è stata promossa in tutto il centro Europa, ma vi è anche una componente di nuove navi da crociera che arrivano e che fanno percorsi molto più interessanti, di un livello forse anche un po' più alto, e quindi attirano persone da Spagna, da Sud America, da Ungheria che prima non venivano. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oltre 6.000 ingressi in 4 giorni, 1.600 dei quali nella giornata di Ferragosto. Sono i numeri dei visitatori del Museo Storico e del Parco del Castello di Miramare, diffusi questa mattina dal Ministero dei Beni Culturali, nel quadro della campagna che ha tenuto aperti in tutta Italia decine di musei e siti archeologici. Il bene artistico più visitato del paese rimane il Colosseo, con quasi 100.000 ingressi nei 4 giorni considerati, 24.000 dei quali a Ferragosto. I nostri musei sono una ricchezza della nazione, rafforzano l'identità e la consapevolezza della nostra storia, ha commentato i dati il ministro San Giuliano. Inaugurata a fine luglio la nuova tratta del Delfino Verde che collega Trieste alla spiaggia Boa Beach di Muggia, solo ieri nella giornata di Ferragosto 270 passeggeri. Spettacolare la vista dei delfini dalla motonave. Si parte dal centro di Trieste, Molo Bersaglieri, 30 minuti di navigazione nel golfo, giusto il tempo della foto, di godersi il panorama, e in un attimo eccoci a Muggia. Qui una seconda barca attende i passeggeri diretti all'acquario, la meglio nota Boa Beach, spiaggia data 2 anni fa sul materiale di risulta degli scavi di Porto San Rocco. Nel tragitto spettacolare la vista di ben 4-5 delfini sembrano salutarci noi che siamo a bordo del Delfino Verde, che per la prima volta quest'anno, da appena un mese, offre questa nuova tratta. Da Trieste al Boa Beach 4 corse al giorno, 5 nei festivi. Costo 11,50 € andata e ritorno, ma se si acquistano le 10 corse, di fatto il prezzo si equipara alla corsa dei bus. Siamo con Silvano Peric, amministratore delegato del Delfino Verde Navigazione. Le chiedo, stamane non abbiamo visto tantissime persone a bordo, però lei dice il servizio di fatto funziona, viene apprezzato, per 3 anni è una prova, e per esempio ieri 270 persone a bordo il giorno di Ferragosto. Certo, il servizio funziona e naturalmente la gente, i residenti di Muggia, fino a esaurimento dei posteggi qui a Boa Beach, si recano in spiaggia con i motorini o con le macchine. Dopo, una volta esaurito, visto che i posteggi sono pochi, e prendono nelle corse pomeridiane o anche tarda mattinata la nostra motonave. Pubblicizzerete ancora di più, ci sono grandi aspettative anche per il prossimo anno. Ah, ma certamente, per il prossimo anno faremo anche delle fiere in Austria, delle fiere in Germania e naturalmente tappezzeremo tutta Trieste, tutti i bar, tutti i ristoranti, tutti gli alberghi, anche a Muggia, e quindi faremo proprio un opuscolino che quest'anno ci è mancato visto il tempo stretto di partenza della linea. Muggia, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo ora al tempo, cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti. Le temperature registrate alle 11 sono queste: a Trieste 29 gradi, mare poco mosso con temperatura di 26 gradi, a Pordenone Gorizia 30 gradi, a Udine 29, a Tolmezzo 24 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra e Tarvisio 22 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 21 gradi, a Sappada 19, sul monte Zoncolan 17 gradi, sul monte Lussari 16 gradi. Tornando sulla costa, a Lignano 27 gradi e 5 decimi con temperatura del mare di 27 gradi e 5 decimi, a Grado 26 gradi e 5 decimi, temperatura del mare 26 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale: questo pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma sulla zona montana sarà probabile cielo variabile con probabili rovesci e temporali sparsi, venti a regime di brezza. In serata qualche temporale potrebbe interessare anche la pianura e qualche temporale localmente potrebbe essere forte. Domani cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile con probabili rovesci e temporali sparsi al pomeriggio. Sulla costa al mattino soffierà lieve borino, in giornata venti a regime di brezza. In serata qualche temporale potrà interessare anche la pianura e anche qui il temporale potrebbe essere forte. La cronaca: poco prima delle 8 di questa mattina i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti a Visinale di Pasiano di Pordenone per soccorrere un uomo che, lavorando con un motocoltivatore, è rimasto incastrato con entrambe le gambe nelle lame dell'attrezzo agricolo. Operando in sinergia con il personale sanitario presente sul posto con ambulanza, automedica ed elisoccorso, i vigili del fuoco hanno smontato l'attrezzo agricolo liberando l'uomo, che è stato portato in ambulanza all'ospedale di Pordenone in codice giallo, stabile e cosciente. La Guardia di Finanza di Udine, nel corso di un servizio di controllo nel territorio del comune di Osoppo, ha denunciato una persona di 52 anni per il reato di produzione, coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sequestrando 20 piante di canapa indiana del peso di oltre 30 kg e ulteriori 208 grammi di marijuana pronta per il consumo. I militari della compagnia di Tolmezzo e di Gemona del Friuli, nell'ambito del piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, hanno individuato la coltivazione di piante della sostanza stupefacente all'interno del giardino di un'abitazione residenziale. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire delle infiorescenze essiccate già pronte per l'utilizzo. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato un provento illecito di alcune migliaia di euro. Il responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Udinesi e triestini sono i guidatori più multati del Friuli Venezia Giulia. Il dato emerge da un'analisi di due siti web di comparazione di polizze assicurative, che hanno esaminato i rendiconti dei proventi delle violazioni del codice della strada pubblicati dalle città capoluogo di provincia della regione. Trieste, con 4 milioni di euro, è risultato essere il comune del Friuli Venezia Giulia che nel 2022 ha incassato i maggiori proventi derivanti dalle contravvenzioni. Seguono nella graduatoria regionale Udine, con 2 milioni e 200 mila euro, e Pordenone, con 759.000 euro. Chiude la classifica Gorizia con 263.000 euro. Nel 2022 l'importo complessivo raccolto dalla regione ha sfiorato i 7,3 milioni. Rapportando le somme incassate con il numero di autovetture e motocicli iscritti nei registri della motorizzazione, la classifica del Friuli Venezia Giulia cambia. Al primo posto si posiziona Udine, dove nel 2022 la spesa pro capite per multe legate alle violazioni del codice della strada è stata di 30 euro, mentre i conducenti triestini in media hanno dovuto pagare contravvenzioni di importo pari a 26 euro. Abbiamo chiesto a Walter Milocchi, comandante della Polizia Locale di Trieste, quali sono le infrazioni più comuni in città. Per quanto riguarda la Polizia Locale di Trieste, la violazione più ricorrente è indubbiamente quella delle soste irregolari, che sono circa 33.000 verbali nel corso del 2022, a seguire i limiti di velocità siamo a 13.000 verbali e poi ci sono molte altre norme, quella di maggior spicco è circolare la patente scaduta, sono 2.500 verbali, la revisione scaduta sono 2.200 verbali, il mancato uso del sensore di sicurezza 465 verbali e l'uso del cellulare durante la marcia 650 verbali nel corso dell'anno passato, e poi molti sono anche quelli che abbiamo accertato circolare senza assicurazione, anche qui parliamo di 550 veicoli privi di assicurazione obbligatoria che circolano. Ecco, riguardo le prime due cose, ovvero la sosta vietata e i limiti di velocità, ci sono delle zone particolari in cui ci sono più casi di questi tipi? Ma per quanto riguarda le soste, noi ci concentriamo naturalmente sugli assi principali di scorrimento del centro cittadino, quindi in gran parte ovviamente lì. Per quanto riguarda il discorso della velocità, i controlli vengono effettuati tanto sulla Tipiano Carsico, sulla strada regionale 35, sulla provinciale 1 in particolare, ma anche sui viali miramare. Voi riscontrate anche molte infrazioni commesse da altri utenti della strada, come sono per esempio i ciclisti o i pedoni? I ciclisti qui a Trieste non sono così numerosi, generalmente è mancato utilizzo dei sistemi di illuminazione di notte, in qualche passaggio del semaforo rosso, i pedoni però più l'attraversamento fuori, gli attraversamenti pedonali, anche nel loro caso quando passano magari con rosso semaforico. Come ogni anno, il Ferragosto rappresenta il momento in cui si intensifica l'attività di monitoraggio e controllo operata dalla Guardia Costiera a garanzia della sicurezza della navigazione da diporto e della balneazione. Nel corso degli ultimi giorni sono aumentati i controlli a terra lungo il litorale e via mare operati dal personale della Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia. Una particolare attenzione è stata rivolta alle attività di interdizione dei tratti di mare durante le fasi di atterraggio e partenza delle navi da crociera, mentre le unità costiere hanno prevalentemente incentrato la propria attenzione al pattugliamento e al controllo delle attività diportistiche e balneari, concentrandosi nelle aree di maggior afflusso quali Muggia, Barcola, Grado e Lignano. Numerosi sono stati in particolare i controlli ai diportisti, soprattutto riguardo alle dotazioni di sicurezza, al possesso dei titoli per la guida delle imbarcazioni e al rispetto di tutte le norme che regolano la fruizione del mare. Spostiamoci ora a Capriva, dove da 150 anni la Fondazione Villa Russitz ospita una casa famiglia per l'accoglienza, l'assistenza e l'educazione di bambini e ragazzi in difficoltà. Un'attività benefica attiva grazie ai proventi del vino. 100 ettari di terreno tra vigneti autoctoni e francesi, coltivazioni bio e un bosco con alberi vecchi di 600 anni. È vastissima la proprietà di Villa Russitz a Capriva del Friuli, che attraverso i prodotti di questa terra fertile nel cuore del Collio si impegna a sostenere educazione e reinserimento sociale di bambini in difficoltà. Una missione che non si è mai interrotta in 155 anni di storia, da quando la contessa austriaca Elvine Ritter decise che i proventi del vino prodotto dal marito agronomo e viticoltore Theodor andassero ai meno fortunati. E se finora la fondazione ha accolto bimbi da 0 a 18 anni dando loro affetto, istruzione e una seconda chance, oggi l'idea è di proseguire nella formazione fino ai 21 anni. Stiamo creando tantissimi protocolli di formazione e di inserimento lavorativo con i nostri colleghi del Collio che hanno già la ricettività e con importantissimi clienti della fondazione, del gruppi alberghieri a livello nazionale e internazionale che sono disponibili ad ospitare in stage i nostri ragazzi. Negli anni la struttura, in modo flessibile, ha risposto alle esigenze del territorio, da educandato, ospedale militare, orfanotrofio, infine casa famiglia. Tra le tante storie, quella di tre fratellini tra i 3 e i 5 anni, tolti per un periodo alla famiglia. Siamo riusciti a lavorare sia con i bambini che con i genitori e dopo 2 anni e mezzo i bambini sono rientrati in famiglia. Quando ho chiesto alla bambina se era contenta di ritornare a casa, chiaramente lei mi ha detto: sì, sono molto felice perché adesso so quello che non si deve fare, e questo è la maggiore soddisfazione per noi. Vendita di vino, matrimoni, contanto di chiesetta interna, convegni. La Fondazione si sta impegnando ad aumentare le attività ricettive ed è in programma una grande ristrutturazione. Un anno fa Camera di Commercio di Trieste e Regione hanno deciso di sostenere l'ente che da alcuni anni era in difficoltà. Volevamo mantenere questa struttura totalmente pubblica, così come è nata e come è stato il lascito della baronessa Ritter, Evin Ritter della Tour, che nella sua citazione dice: lasciamo, produciamo vino per sostenere i ragazzi e le ragazze. E questo noi facciamo oggi. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Attori, sportivi, politici, presidenti della Repubblica, in oltre 40 anni di attività che continua, tanti sono stati personaggi famosi accolti in un noto ristorante d'albergo di Venzone che ricorda ognuno di loro con una foto e per ognuno di loro non manca un aneddoto. Dagli anni Ottanta hanno voluto ricordare la loro presenza con una foto di rito assieme al proprietario di un albergo di Venzone, anticipando di 40 anni la moda del selfie con gli smartphone. Personalità della politica, dell'economia, dello sport e dello spettacolo transitate per la Carnia sono visibili ora nelle centinaia di fotografie appese nelle sale di un noto locale della pedemontana carnica. Due capi di Stato, cinque presidenti del Consiglio, diversi ministri e segretari di partito dalla Prima Repubblica ai giorni nostri. Si va dalla visita in Friuli nel 1983 del Presidente della Repubblica Sandro Pertini a quella di Giorgio Napolitano nel 2012, poi Giulio Andreotti, Giovanni Goria, Giovanni Spadolini, Enrico Letta e un giovane Romano Prodi, all'epoca a capo dell'IRI, che venne a Venzone per constatare lo stato dei lavori della nuova autostrada Alpe Adria. Una collezione di immagini iniziata più di 40 anni fa. Livio Treppo, albergatore. Ho inaugurato il 7 luglio del 1979 e mi sono chiesto perché non facciamo una foto e cominciamo a scrivere un po' di storia. Locali che hanno ospitato negli anni il gota dell'imprenditoria friulana, Andrea Pittini, Rino Schneider, Carlo Melzi, tanto per citarne alcuni, e il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Luigi Federici, già ai vertici della Iulia. Nello sport spiccano le gigantografie del fuoriclasse brasiliano Zico, Enzo Berzot con la sua immancabile pipa e il vincitore della Parigi-Dakar Edio Rioli, tutti immortalati con le macchine fotografiche dell'epoca. Avevo un fotografo di fiducia che era De Monte di Pontebba. Io lo chiamavo per telefono e entro 20 minuti era qua. E poi ancora il mago Silvan, Ezio Greggio agli esordi, cantanti attori. Immagini che hanno suscitato molto interesse da parte della clientela. Tutti rimangono un attimino sbalorditi, ma è anche piacevole fare fotografia con loro, che apprezzano tantissimo, e poi magari nel proseguo della vita rivedersi. Venzone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo sport, il calcio. Lazar Samardžić non sarà un giocatore dell'Inter. La cessione ai nerazzurri del giocatore serbo dell'Udinese, che aveva già effettuato le visite mediche a Milano, è saltata definitivamente oggi, secondo fonti di entrambe le società riportate dalla Gazzetta dello Sport. Le trattative, che erano arrivate a un passo dalla conclusione, si erano bloccate repentinamente pochi giorni fa a causa della scelta del giocatore di cambiare il proprio procuratore e di voler ridiscutere i termini dell'accordo. Samardžić, che ieri non si è allenato con il resto della squadra bianconera, continua a essere sul mercato con l'Udinese che resta in attesa di offerte. Comincia con una sconfitta il cammino dei New Black Panthers di Ronchi dei Legionari nei play-off scudetto di baseball. La squadra regionale è stata battuta per 5-1 dalla Fortitudo Bologna nella prima partita disputata sul diamante di casa dello stadio Gaspardis. Sconfitta meno netta di quanto dica il punteggio, i ronchesi sono riusciti a bloccare il punteggio sullo 0-0 fino al quarto inning, quando Bologna è passata in vantaggio, e sono rimasti a contatto dei più quotati avversari fino alla settima ripresa, conclusa sul 2-1. Stasera le due squadre tornano in campo per la seconda partita, di nuovo alle 20:30 e di nuovo allo stadio Gaspardis. Poi la serie, che è al meglio delle cinque partite, si sposterà a Bologna. Torna questa sera a Lignano Pineta lo spettacolo pirotecnico L'incendio del mare, che porterà nei cieli della località balneare le coreografie ideate da Ciro Manfredonia, storico regista dello show nato nel 1995. Quest'anno, in occasione dei 70 anni della società Lignano Pineta, l'appuntamento clou dell'estate per antonomasia si arricchisce di uno spettacolo che punta a richiamare gli appassionati della musica anni 70, 80 e 90. Alle 21:30 le luci del palco di Piazza d'Olivo si accenderanno infatti su Renato Pontoni e Carlo P, i DJ del Ceghedà.